Collegandomi a quello che dicevi, io ho letto un articolo dell'assessore all'ambiente di Morcone, il quale affermava che loro avrebbero avuto 400.000 euro, ho detto prima, 400.000 euro da questa società eolica che ne produrrebbe, secondo me, 21 milioni di euro. E questi 400.000 sarebbero utilizzati per comprare scuola bus, per aiutare le famiglie a non pagare la retta per quanto riguardava la mensa scolastica dei bambini, e che quindi avrebbero prodotto un beneficio per la collettività. Questi sono i soliti metodi che vengono utilizzati da tutti quanti gli amministratori che si vanno a coinvolgere con le società, diciamo, multinazionali, perché loro probabilmente hanno preso un po' di soldi sotto banco per aggiustare un loro problema, eccetera, eccetera. Non gli vanno a dire invece di quello che è la realtà. Primo, che noi sulla bolletta dell'energia elettrica, su 500 e dispari euro di bolletta all'anno, più o meno in media, ne paghiamo 89 che vanno alle multinazionali per quanto riguarda i certificati verdi, L'energia alternativa. i quali praticamente. Praticamente noi paghiamo l'energia elettrica, lo Stato paga l'energia elettrica per un megawatt di prodotto che costa intorno ai 70 euro, lo Stato gli dà 180 euro a chi mette le paneoliche. Ma questo va alle multinazionali che hanno convenienza a fare, senza sapere che praticamente quei soldi non li paga lo Stato, perché non lo può pagare, lo Stato non può fare aiuti di Stato a aziende private. Sono soldi che prelevano a noi sulle bollette. L'anno scorso, 2013, hanno prelevato sulle nostre bollette 12 milioni di euro. Va bene? Quei 12 milioni di euro servono per finanziare il fotovoltaico, per poter finanziare l'eolica, eccetera. Allora, perché da noi, scusate se vi parlo dell'eolica, questa è una cosa che purtroppo qua a Morcone è una questione pesante. Perché? Perché praticamente queste società, questo tipo, questa energia non è che la lasciano qua, cioè non è che no, i morcolisi non pagano più energia, ma così questa energia va semplicemente al nord-est dove stanno le industrie, dove serve. E questo qua viene fatto la mattina, perché nella sera, quando praticamente queste industrie chiudono, le pale producono ancora, per quanto producono, ma producono ancora. E quell'energia che viene prodotta gira a vuoto nella rete, perché no, noi non abbiamo centrali elettriche che accumulano, l'Italia non ne ha. Per cui quella energia elettrica gira, noi la paghiamo perché paghiamo i certificati verdi, e si perde nella rete. Cioè noi di notte prendiamo il 70-80% dell'energia prodotta dalle pale eoliche, perché si perde, perché non viene utilizzata. E non c'è nessun beneficio, cioè noi quei soldi noi li cacciamo, sono soldi veri che cacciamo, e in realtà di vero noi come beneficio non abbiamo. Il fatto per esempio che noi camminiamo con le macchine a diesel è un sistema che loro hanno creato, e noi a questo ci dobbiamo opporre, cioè nel senso che quando ti chiedono delle soluzioni, diciamo, la soluzione prima di tutto è il risparmio. Secondo, tu non mi puoi venire a devastare un territorio perché devi portare soldi a qualcuno che magari sta in Germania, che le multinazionali sono quelle, Germania, Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra. Va bene? Qui che ci rimane? Ci rimane la devastazione, e loro si portano i soldi. Allora, il problema è, diciamo, dell'energia in generale, perché ci stanno queste energie che vengono sfruttate specialmente al sud, perché noi praticamente siamo i pezzenti dell'Europa, dove qualsiasi multinazionale può venire qua e ti viene a dire: senti, io ti do all'amministratore comunale, ti do tanto, fammi fare sta cosa. Ah, Il governo, chiaramente, che ha interessi, deve necessariamente, perché deve rispondere a degli interessi, perché delle multinazionali, magari si trovano nelle condizioni e dice vabbè, questa è un'opera strategica, è necessaria, ma è necessaria, hanno deciso loro. Tu vieni con la popolazione a parlare.